Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Anche oggi il nostro appuntamento consueto con l'Adico, tra l'altro l'unico di questa settimana, perché poi venerdì prossimo, essendo l'8 dicembre, c'è la festa e non ci saremo con il collegamento dell'Adico, però saluto Gianluca Codognato al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, quest'oggi raccontiamo una vicenda particolare che riguarda un problema che ha in questo momento un vostro assistito con la linea internet. Raccontiamo bene i fatti. Sì, li raccontiamo anche perché oggettivamente noi che insomma ne vediamo e ne sentiamo tante, essendo un'associazione dei consumatori, devo dire che una vicenda di questo tipo ci mancava, quindi diciamo è stata aperta una nuova frontiera, Francesco, anche nel settore delle telecomunicazioni. E il problema riguarda un insegnante mestrino, quindi della provincia di Venezia, cliente Wind 3 da esattamente 5-6 anni, quindi un cliente affezionato con la sua linea DSL e un altro tipo di contratto. Si è sempre trovato bene, non ha mai avuto problemi, però diciamo a metà ottobre scorso un'operatrice Wind l'ha contattato e gli ha proposto di passare alla fibra. Ben venga, ha detto lui, magari sarà anche meglio della DSL, funzionerà anche tutto più veloce. Insomma, lui che ha una famiglia composta di 3 figli che utilizzano molto internet, lui utilizza internet assieme alla moglie per le operazioni anche quotidiane, il pagamento delle bollette, l'home banking e quant'altro, ha aderito volentieri insomma a questo passaggio alla fibra. E una volta sottoscritto il contratto ha atteso appunto questo passaggio, però bisogna dire che è andato molto male, perché per un mese la fibra gli ha creato problemi. In parole povere, non ha più avuto internet in casa, con conseguenti disagi per tutta la famiglia. Certo. Ovviamente ha cominciato a contattare i call center, che chiaramente gli hanno assicurato che prima o poi la situazione sarebbe stata risolta, però invece in realtà verso il 20, anzi proprio il 22 novembre scorso, un'operatrice insomma gli ha confessato che effettivamente non era possibile più passare da fibra ad ADSL. Già questo chiaramente ha spiazzato completamente l'insegnante, che ovviamente voleva ritornare ad avere la DSL come aveva prima della fibra, funzionava benissimo. Questa operazione non era possibile, non è stata più possibile, ma la cosa che veramente ci ha lasciato di stucco è che l'operatrice, dopo aver comunicato che non era possibile più passare dalla fibra alla DSL, gli ha consegnato il codice di immigrazione e l'ha invitato a trovarsi un'altra compagnia. Devo dire, Francesco, che effettivamente una cosa di questo genere non l'avevo mai sentita, perché insomma sappiamo che le compagnie poi fanno di tutto per mantenere la propria clientela e per cercarne di nuova. Questo fatto chiaramente ci ha spiazzato, perché qua ci troviamo di fronte a una proposta effettuata dalla stessa Wind al proprio affezionato cliente, una proposta che non è andata a buon fine, l'impossibilità di ritornare appunto con la linea DSL e l'invito a trovarsi un'altra compagnia, cosa che chiaramente creerà nuovi disagi, Francesco, al nostro socio, perché adesso dovrà trovare una nuova offerta, attendere ancora del tempo, probabilmente dovrà attendere il 2018 prima di poter vedere di nuovo avere di nuovo internet a casa con la stessa funzionalità di prima. Quindi davvero una vicenda dai contorni kafkiani. Ripeto, ne abbiamo tante vicende particolari, ma ci mancava quella della compagnia che invita il proprio cliente, ripeto, un cliente integerrimo, quindi non un cliente moroso, ad andarsene con un'altra compagnia, evidentemente per un proprio di servizio e per un proprio errore. Queste sono cose che vi capita di seguire e che adesso affronterete con il vostro studio legale. Sì, chiaramente adesso siamo alla seconda fase. Ora il socio ci ha raccontato la vicenda, ci ha spiegato anche che per la sua famiglia, lui è anche un insegnante, per la sua famiglia internet è fondamentale, per lui e per i figli, perché è veramente molto utilizzato, anche in senso positivo in famiglia, e comunque viene utilizzato moltissimo, quindi oggettivamente da quello che appunto ci ha raccontato il nostro stesso socio, è cambiato proprio il tenore di vita di questa famiglia. Infatti, assieme al nostro ufficio legale, siamo andati un po' a studiare la situazione e chiaramente andremo a chiedere un risarcimento che tra l'altro abbiamo quantificato in circa 3.000 euro per i servizi subiti e per quelli che continuerà anche a subire, perché ovviamente, come ho detto, certo, ci vorrà un po' di tempo prima che possa utilizzare una nuova linea internet. E quindi insomma noi andiamo a chiedere, anzi il nostro socio tramite noi andrà a chiedere questo risarcimento di 3.000 euro e ovviamente in questo lasso di tempo andrà anche a cercarsi una nuova compagnia con urgenza, perché ripeto, questa famiglia utilizza internet come tante ovviamente, con frequenza, anzi quotidianamente, quindi questo disservizio ha creato grandi disagi. Va bene, allora ricordo che c'è l'Adico a disposizione per tante questioni, vi invito ad andare a visitare il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Noi, caro Gianluca, ci ritroviamo quindi martedì prossimo, dato che, come dicevo in apertura, venerdì è l'8 dicembre ed è festa. Ciao e grazie. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.